Attimo, allora più famosa era di Nurkis, in Gallura, di Nurkis. Allora ho sbagliato io, Nurkis, stavo dicendo Suni, Nurkis, c'hai ragione benissimo. In Gallura vicino al Tempio, Nurkis, io ho detto Suni, chissà per quale motivo, stavo pensando a un'altra persona. Questa era una di quelle che faceva le cose, leggeva le profezie, cose, quella di Suni, non c'entra niente. Di Nurkis, hai detto bene, Nurkis, infatti mio padre era vicino al Tempio, Nurkis. Avanti, mi sembrava usato qualcuno, chi c'è in frequenza adesso? A parte di Cardino e Roberto. C'è anche Antonello. Giovanni, sono andato anch'io di lì, sono andato da quella. Solo che con me non ho cavato piedi, me ne manca che c'ho la psoriasi, capito? Però c'era una penna di uccello, di piccione per esattezza. Quando ti passava quella non potevi neanche stare appoggiato al sedile, figurati tu. Non ho cavato piedi, sono andato per... Non voleva niente, sono andato per 2 settimane, alla fine ho detto fa il culo tu e il coso, ho detto la pedale piccione. Vabbè, ma attenzione, non so. Scusa, non avevi bruciature, e cosa c'è? Adesso lì è tutta l'altra minestra, e attenzione. Anche mio padre ce le aveva, le psoriasi. Ma sto parlando di 50 anni fa, se lo curavano con una specie di catrame, mi sembra, adesso mi ricordo bene. Sì, catrame tossico, non sono fatto. Io me l'ho messo la prima volta che sono ricoverato, me l'ho messo il catrame di notte. Ho cominciato a vomitare verso la mezzanotte, tutta fino alle 5 del mattino, ho detto mi. Ho detto di nuovo una cosa del genere, ho detto, la denunciato, gli ho detto. È stata più di 2 mesi che è cambiato il metodo, ha cambiato. Hai capito? Ma ti parlo quando c'era la clinica lì di fronte all'emiciclo, capito? Io ho capito, via Mancini. Adesso non lo so. Scusate, se ci sia una cura nuova per quanto riguarda le psoriasi. A dire la verità, a me me ne è uscita una un mese fa. Ho usato delle erbe che conosco io e mi è sparita. Adesso non so se sia sparita così. Almeno fino adesso mi è sparita. Poi, boh, non lo so. No, c'è un prodotto adesso, uno spray, cioè. Bianco, sembra schiuma la barba, sembra. Passi quello e in oriatina guarisce subito. E poi il problema è che quando lo spruzzi deve stare molto distante da una sigaretta, sopra di fuoco. Forse non ho capito. C'è uno spray, ho detto, e all'interno c'è una specie di schiuma alla barba, hai capito? Dopodiché questo spray qui c'ha un propellente in pratica per far uscire questa schiuma, che è butano, hai capito? Gas, in pratica gas di quello per poter cucinare. Quindi se passi con un accendino ci rimani ustionato come minimo. E già andare al buio allora, Comunque te l'hai ordinato il dottore o chi? Me l'ha ordinato un'infermiera, a me la verità. E funziona veramente bene. Quando ti serve ve lo dici, ti dico la marca, che addirittura non lo paghi nemmeno, hai capito? Gratis. Vai, fai la ricetta e non paghi. Eventualmente adesso non ce n'ho mancuna, una ce n'è vicino. Non ho capito di cosa state parlando, però di ustioni o di che cosa? Mi dai il numero di passo, va. Ah, psoriasi più che altro, capito? Ma che psoriasi, insomma. Capito? Ma non c'è bisogno di uno di bassa, tu dico che qui sei voi, mica. Non è quello il problema, non c'è niente da nascondere io. Grazie a Dio. Lo uso, quello me lo passo, messo con la... ti metto la mascherina naturalmente, che sennò cazzo ti ammazza solo l'odore del gas, capito? E poi i guanti in latice in modo da spalmarlo, dove c'era il coso, la macchia cutanea. Dopodiché in tempo di 24 ore non c'è più un cazzo. Scusa, dimmi qual è, me lo puoi dire? Sì, aspetta, te lo dico subito, te lo dico. 2 minuti, dammi che vado a prendere la scatola, te lo dico. Dai. Ma non è che ti stanno facendo l'impermeabilizzazione col cannello, no, Antonello? Poi è andato a vedere a darmi come si chiama. Sembra che siano cucinando col cannello, o impermeabilizzando. Oia, oia, robè. Ehi, aspetta, c'è anche Riccardino, dai. Ci sa con la Riccardo. Ehi, ok, dai, ogni tanto c'è qualcosa di interessante da capire, da rubare, dai, non dico da capire, da rubare qualche informazione che magari può essere utile a qualcuno, dai. Ok, Marco, avanti a lei. Ehi, in riferimento al discorso di prima, no? Dei sardi, no, dei rimedi che conoscevano, comunque dell'alimentazione dell'età. Proprio ieri ho visto una puntata di Grey's Anatomy dove la protagonista raccontava che da giovane, presumo anni 80, era stata in un paesino interno della Sardegna, no, molto lontano dalla modernità. Ed era affascinata dal fatto che c'erano un sacco di anziani, dice, parole sue erano, dice, lì vivono 90, 95, 100 anni, anche di più, ed era affascinata da questo fatto, dice, mangiano le cose che coltivano, e dice, è meraviglioso questa cosa, dice, non esiste quasi il cancro, non esiste l'infarto, capito? Era molto molto colpita da questo fatto. Lei è ovviamente americana, no? Quindi immagino, cioè, gli americani si mangiano cose un po' pesantucce, no? Mi è piaciuto quel pezzo della puntata. E comunque anche tutti gli istituti di ricerca appunto ricercavano, diciamo, il motivo della longevità dei sardi, soprattutto nelle regioni interne, no? Cioè che non mangiano pasticci, capito, come adesso è tutto adulterato, tutto modificato, e quindi l'alimentazione era sana, non era eccessiva, perché come dire, non credo che si abbuffassero a McDonald's, no, gli anziani sardi, capito? Era tutto migliore. Come ha detto anche Coso, vino, sta roba sana, capito? Vai, Robè. Sì, l'ho vista io, anche quando ho fatto proprio documentari riguardo di queste cose, anche i canali italiani, la RAI, Medias, eccetera, eccetera. Non si capisce con quale logica, perché non è solo discorso di clima, perché è l'unica parte del Mediterraneo, c'è un altro posto nel mondo paragonabile a questo, come centenari, come numero in rapporto alla popolazione, però noi abbiamo la Corsica vicino, sono molto meno della Sardegna, la superficie è la metà, e gli abitanti sono circa 300.000, per cui sono un quarto, anzi un quinto, meno di un quinto della Sardegna, però la Corsica che è vicina, il clima è abbastanza simile al nostro, eppure non c'è un posto come quelli dell'Oliazza dove ci sono questi centenari. Ok, io ho un libro, non sono comprato, anzi ne ho due, uno in versione ridotta e un volume grande, dove ci sono i rimedi della nonna, e sono solo rimedi di queste cose generalizzate, cioè a base di cose antiche, cose, detti, leggende, eccetera eccetera. Ce n'è uno che mi ha colpito tantissimo, se volete ve lo racconto. Sì, dai. Allora, le donne, soprattutto quando c'è il periodo, diciamo, quando hanno il ciclo, hanno problemi di ferro, c'è una carenza di diminuzione di ferro, e anche per altri motivi, diciamo, per altri tipi di malattie. Prendi una mela tu, anzi, prima di prendere la mela devi prendere dei chiodi, li lavi naturalmente, questi chiodi li metti dentro la mela, li lasci per un po' di tempo, dopodiché, dopo qualche giornata, i chiodi vanno in ossidazione, depositano del metallo, del ferro, tu li chiudi, ti mangi la mela e ti dà una percentuale enorme di coso, di ferro, cioè ti serve a reintegrare quelle perdite quando c'hai questi problemi qua delle donne. Figurati, hai visto come si ingegnavano, altro che ferro fortin, no, tutta quella roba fatta in fabbriche, cioè, aspetta, e infatti poi con tutte queste tradizioni un po' andranno perdute e si ritroveranno sui libri quei metodi di una volta, però adesso vabbè, sta cambiando tutto. Comunque sicuramente per questa storia della ultracentenarietà sicuramente c'è anche un fattore proprio genetico azzeccato, e quindi a quello vogliono arrivare gli scienziati, riuscire a replicare questo gene o quello che possa riprodurre comunque una longevità nell'uomo. Ma adesso hanno trafugato, che poi li hanno recuperate, non so se erano 10.000 DNA di queste zone qua, di queste zone dove ci sono queste persone ultracentenarie in certi casi, ma un'aspettativa di vita molto ma molto più grande di quello rispetto alla media del mondo in quel posto, in quella zona lì. Ci sono delle donne anche di 110 anni, non so se sono ancora vive, però c'erano intorno ai 108, 107, ce ne sono più di una. Ok, e hanno trafugato questo DNA, è stato uno scandalo totale, non si capisce come è stato fatto, e l'ha preso questo laboratorio inglese, poi l'hanno restituito naturalmente. Attenzione un attimino, io a questi non le permetterei di far nulla, per intendersi, perché questi, diciamo, sono mandati dalle case farmaceutiche. Una volta che ti inventano qualcosa che è importante, ce la fanno pagare salata, e i poveracci naturalmente non se la possono permettere. Allora, se parliamo di medicina, vi posso raccontare un episodio che ho visto la televisione, che è vergognoso. Aspetta un secondo, che gli do la marca del coso a Bracco. Bracco, ci sei? Dove? Sì, ci sono, dimmi, dai. Allora, questo prodotto si chiama Instillar, in pratica, hai capito? Sono 50 microgrammi di calcipriolo e betamezole, si chiama, in pratica. Instillar. Capito? È scritto? Sai l'alfabeto fonetico, Antone, fa lo spelling. Ma ne parlo in due, ecco. Il marchio è Instillar. Capito? Fai lo spelling, Antone. E come ecco. N di novembre. S di sovraccarico. Poi di di Tonto, poi L di Lima, A Alfa, R Romeo. Eccolo, Instillar, provato, calcio, insomma, sembra una bomboletta di gas, infatti è una bomboletta di gas. Ha detto lei, è pericoloso, e ci pieti parafina liquida. Cazzo, perché c'è questo gas profano in mezzo, capito? Quindi non devi avere sigarette vicino, non devi avere un contenitore solamente infiammabile, c'è scritto. Proteggere i raggi solari, non esporre a temperature oltre 50 gradi. Se no prendi fuoco. Ascolta, comunque io non l'ho copiato bene, ho scritto E-N-F-T-L-A-R, chi l'ha copiato bene me lo ripeta. Esatto, esatto, ecco, November, Sierra, Tango, India, Lima, Alfa, Romeo. Allora, Empoli, Napoli, Sardegna, Torino, Lima, Alfa, Roma. No, dopo la T c'è la I di Italia, quindi Empoli, Napoli, Sassari, Torino, Imola, L, cos'è L? Una città con la L, boh, la Spezia, poi Ascoli e Rovigo. No, a ripetere, E come Empoli, N come Napoli, S come Sardegna, T come Torino, T come Torino, I come Imola, L come Lima, A come Ancona, R come Roma, mi sbaglio? Sì, si pronuncia così, Instillar, ed è, principio attivo è calcipotriolo più betametasone, e sicuramente è un cortisone, è a base di cortisone. Vai Roberto. Infatti guarda, io non lo sapevo, ho detto sicuramente è a base di cortisone, capendo i principi attivi, ho detto questa è roba di cortisone. Un gas in mezzo per farlo uscire, è altamente infiammabile, quindi non deve fumare per niente, se fuma cazzo, c'è lui insieme a cazzo qualcosa, comunque fa bene, la verità, guarda che non paghi nulla, quindi è mutuabile, odiato dal medico e capito, è mutuabile, non paghi nulla. Porca miseria, però è pericolo l'esplosione, madonna, comunque bisogna saperlo, perché se quando prenderai questa roba te lo avvertiranno, speriamo almeno, io ormai lo so, ma secondo chi la usa guai. A me l'hanno detto, dice che sta attento, mi ha detto, dice, se c'è gente che fuma vicino a te, dice, fa la notare, non sa che, perché quando tu stuzzi esce anche il gas, hai capito? Quindi in pratica esce il gas a pressione, se c'è qualcuno vicino a te che ha un metro e mezzo di distanza, se c'è la sigaretta accesa, lo esame si incendia tutto. Un praticamente è napalm, comunque è schiuma spray, sì. Ah, Robè, quando parlate assieme, quando riprendete assieme, sai che il pomponio sotto di te scompare? Io sono troppo forte, gliel'ho detto. Va bene, questo non lo conoscevo, per dire, vabbè, io non ne ho, no, non ne soffrivo. Adesso questi sono prodotti anche innovativi, non c'erano una volta questi. E sempre, poi alla fine è sempre cortisone, mi. Non è che ne puoi abusare, certo il pomponio è messo male per quel tipo di patologia. Sì, ce l'ho 20 anni, figurati. Figuro che le donne che quando gli arriva il coraggeggio che tu vai a tirargli l'attrezzo, Marco, questo cosa fai? A un certo punto quando vedi queste macchie cazzo con questa roba strana, non penso che gli fidi nulla. Parliamo bene. No, ti devi astenere, Antonio, astenere. Adesso faccio la battutaccia. Antonio, guarda che il 5G peggiora la psoriasi pure me. Domani. C'è poco da peggiorarmi a me, più di quello che sono peggiorato in testa, cazzo. Era una battuta, naturalmente. Ah, lo so, c'è bisogno di dire. Purtroppo il 5G ce l'ho di fronte, cosa devo fare? Sto solo aspettando qua, sto solamente aspettando, poi mi diverto. Perché sarà la volta buona che mi lasciano in pace e non mi rompono più le spalle. Vabbè, comunque Robè, avevi ragione l'altro giorno. Adesso il 5G gli stanno dando la colpa di tutto, tutto, qualsiasi cosa c'hai è la colpa del 5G. Ma se sono arrivati a dire che addirittura l'onda del 5G trasporta il virus, a questi sono malati di mente. Posso capire se dici che se sei troppo vicino magari ti potrebbe buttare giù le difese immunitarie, cosa che dubito, manco fossero raggi gamma, cioè non sono raggi gamma, capito? Sono onde radio alte, ma ho sempre onde radio. Ma ieri tu l'hai sentita la discussione a riguardo del 5G? Come ero, beh? Ieri notte la discussione del 5G, gli argomenti che ho tirato fuori, l'avete sentito? E io qualcosa ho sentito, sì, qualcosa, ma ero under torre, sì. Comunque sì, è vero che usa alcune frequenze alte, abbastanza alte, però d'altronde non, cioè, noi siamo, come giustamente hai detto, in Italia, Europa, ma in Italia soprattutto, è il più restrittivo per quanto riguarda le emissioni. Io già leggevo che per il tipo il 4G in America hanno potenze 10 volte superiori, forse per coprire anche quei grandi spazi che hanno, no? Quelle zone desertiche. Da noi sono molto molto più stringenti. L'importante è che ci sia sempre l'autorità che controlla anche per il 5G. Non sia che facciano i furbi questi delle aziende telefoniche, robe, vai. Ma questi 5G in poche parole a cosa servono? Posso parlare? Vai, robe. Se volete vi spiego un pochettino il discorso del 5G, perché c'è molta disinformazione. Le frequenze sono leggermente superiori alle 4G, anche se utilizzano delle bande vicine e anche inferiori ai 4G. Diciamo, mediamente sono le frequenze sono superiori. Più si sale di frequenza, teoricamente, almeno non è ancora dimostrato, però diciamo teoricamente sono più dannose per gli esseri umani le frequenze. Più si sale fino ad arrivare all'ultravioletto, eccetera, eccetera, o all'infrarosso, come le radiazioni solari, perché tu ti metti sotto il sole l'estate, a mezzogiorno ti bruci, e diciamo il principio è lo stesso, anche se stiamo parlando di frequenze molto più basse, non così alte. Il 5G come logica di trasmissione di segnali, più si sale di frequenza è più difficile fare lunghe distanze, per cui hanno aumentato la percentuale, la quantità di cellule per coprire gli spazi, solo quello è il problema. Tenete presente, in Italia, come hai detto tu, la normativa non devi superare i 6 millivolt di segnale, millivolt metro. Questo è il valore italiano ed è il più restrittivo al mondo, non c'è nessun altro nel mondo che ha un valore così basso. Per dire, gli Stati Uniti ne hanno 60, la Germania 58, la Francia e la Svizzera mi sembra sono intorno ai 48. La potenza massima di un 4G, di un ripetitore 4G che lavora a distanze più ampie, è 100 watt per rimanere entro i limiti, però mediamente sono 30 watt le potenze delle cellule, di ogni cellula, a parte qualche stazione bella grossa, ma in punti strategici arrivano anche a 100 watt. Le potenze massime volume di un 5G stiamo parlando dall'1 ai 10 watt, sono molto più vicine le cellule, perché il massimo tragitto teorico che può fare un'onda su quelle frequenze lì e con quelle potenze lì e con, entro i limiti di legge, sono 500 metri, loro devono lavorare entro i 300 metri, e qua abbiamo spiegato tutto. Il vantaggio del 5G, prima di tutto la velocità di trasmissione dei dati, che è una cosa fenomenale, 100 volte superiore al 4G, per cui non ci saranno discorsi di televisione, di canali 4K, eccetera, che sarà ormai un'abitudine nelle macchine, è che non ci sarà limite di qualità, perché avrai delle trasmissioni in 4K, non ci sarà la latenza, non so se sapete cosa sia, la latenza è il ritardo di risposta dell'immagine, della informazione rispetto all'origine, che è pochi millisecondi, al contrario di coso che si parlava quasi di un secondo nelle trasmissioni 4G, non so se avete notato alla televisione, quando c'è una trasmissione che parlano con uno fuori sede c'è sempre un leggero ritardo, vabbè lì ci sono altri fattori che ritardano ancora di più, perché c'è la trasmissione, c'è l'elaborazione del segnale, eccetera eccetera. Questo sistema è utile, soprattutto voi dite a noi non se ne appunti nulla, però quando ci sarà la telemedicina effettivamente valida, con tutti gli ospedali del mondo collegati uno con l'altro, e ci saranno le operazioni fatte col computer, con dei robot, eccetera eccetera, se tu anziché impiegarci un millisecondo a fare un intervento, a toccare quello che devi toccare, ci metti un secondo, puoi fare dei danni. E poi c'è la cosa più importante, le macchine del futuro sono tutte con la posizione, come si chiama, collegata via satellite a queste cellule, eccetera eccetera, per cui sai istantaneamente la posizione dove sei. Le macchine adesso parcheggiano da sole, si muovono da sole, frenano da solo, e addirittura c'è la guida senza pilota, quelle di ultima evoluzione, e questo è tutto dovuto a questo sistema qua. Tutte le palle che stanno dicendo sono solo balle, boh. Ehi, poi leggevo le frequenze, no? Giustamente dicono che le frequenze più alte sono più adatte al trasferimento dati veloci, no? Però giustamente più alta la frequenza più resente degli ostacoli, quindi muri, alberi, no? E quindi stavo leggendo, quindi sono intorno ai 700 MHz una frequenza, o una intorno ai 3,7 giga e una che è eccezionalmente alta, intorno ai 27 giga, caspita! Quella è quasi molto molto alta, vabbè. Comunque se poi regolano tutto come dovrebbe essere, non dovrebbero esserci problemi. E va bene, vai Rubè. Allora aggiungo una cosa, 23 giga la frequenza più alta, diciamo per certi tipi di lavoro. Loro stanno cercando di mettere e utilizzare normalmente le linee dei pali, i pali stradali, diciamo, che sono abbastanza vicine, ogni 50 metri, 100 metri più o meno, dipende dalle configurazioni del territorio, le mettono nei pali del corso e mettono anche altri sistemi, diciamo videosorveglianza, eccetera eccetera. La cosa che molti non sanno, molti di voi hanno a casa la linea wifi, o sbaglio, confermato? Sì, il modem saltuario, io lo attacco solo all'occorrenza. Allora, a casa mia si può dire attaccata 24 ore su 24. Se tu misuri l'intensità di campo elettrico di una linea wifi a casa, che ha una copertura media di 30 metri, e se c'è quelle più potenti arrivano anche a 80 metri, misurati quel campo di lì e superi 600, in certi casi, quando ce l'hai vicino, 600 millivolt per metro, ed è un valore assurdo. E tenendotelo 24 ore su 24 ti può dare dei problemi. Anche se parliamo di altre cose, di altre prove che hanno fatto istituti di ricerca, diciamo devi essere attaccato completamente all'antenna per evitare. Il forno a microonde normalmente ha una potenza che varia dai 1500 ai 2000 watt e lavora su frequenze simili a quelle dei 5G, fate il conto, quando tu ci metti il cibo dentro te lo scioglie, per cui la potenza di un forno di erogazione di quantità di energia in un forno a microonde, se tu lo apri spacchi il mondo, per dire, puoi creare dei grossi problemi. Per cui noi ci stiamo lamentando di una cellula che ha un'intensità di campo elettrico di 6 come legge, poi magari in quel caso può andare male qualcosa, può arrivare a 10, però mediamente non deve superare i 6, loro si tengono molto più bassi, perché hanno fatto vedere delle immagini alla televisione, quel tipo col coso, col misuratore di campo, misurando, e c'era il ponte della RAI vicino. Il problema è quelli, i ponti di trasmissione delle radio broccati, quindi lì ci sono migliaia, per non dire centinaia di migliaia di va, parte, perché se tu vai dove c'è la Radio Vaticana, a cosa, a Galera, poi si chiama appunto a Galera, zona, non mi ricordo come si chiama, dove c'è quella zona della Radio Vaticana, che usano megawatt di potenza, no, migliaia, megawatt, decine di megawatt, anche se adesso hanno ridotto tanto. Di lì sono i problemi, che di lì sì che creano dei grossi problemi alla popolazione. Come si chiama Punta Galera, non mi ricordo come si chiama quella zona che c'è via Salaria, quelle zone lì di là, quelli ti devi preoccupare, non assolutamente il discorso dei 5G o dei 4G, ne ha buttato l'antenna, noi vogliamo tutti il telefonino, però ci lamentiamo di queste cose, gli hanno buttato l'antenna e sono stati un paese di 3.000 abitanti senza telefono, non so se l'avete visto, non mi ricordo nel Bresciano o in Trentino, buh, perché secondo loro lo danneggiano, invece non ponte 4G, 5G ancora non li stanno facendo, stanno iniziando a cablare le principali città, in Sardegna non è roba da va. Ehi, ma Antonello avrebbe detto che a Carlo Felice avrebbero messo un'antenna e da caso strano da quella volta vedono male i canali, io non so cosa possano aver piazzato. Fatto sta che tutto il rione vede male la TV e ovviamente la colpa a chi l'hanno data? A Antonella, l'ha detto Antonella con quel baracchino sicuramente sta disturbando, eccetera. Poi non so se li abbia visti armeggiare Antonello proprio a ripetitore, boh, è un'incognita. Allora, le trasmissioni TV sono state ridotte, la banda dedicata alle trasmissioni TV, perché c'è la linea LTE dei coso, dei cellulari, hanno preso una fetta i canali alti, perché era prima 21,69, adesso ne hanno tolto una fetta per dare la frequenza dei 1008 ai coso, ai cellulari, quelli famosi 4G, per cui qualche problemino può nascere, ma sono apparecchiature talmente sofisticate, il problema nasce non a monte, a valle, per quelli che hanno l'impianto centralizzato super amplificato con cavi in perdita eccetera, da lì nascono i problemi e il disturbo, come ho detto l'altro giorno, l'ho spiegato, nei canali digitali o scompare o non ce n'è, oppure ti squadretta l'immagine o ti si ferma l'immagine, non esiste il disturbo vero e proprio come nelle vecchie analogiche che ti faceva con le righine, o si ferma l'immagine oppure ti fa lo squadrettamento, questi sono gli unici disturbi che possono nascere oppure diventare nello schermo nel digitale quando vedono altre righine, non dipende sicuramente dal telefonino o dal baracchino, se c'è il baracchino che arriva in armonica sul canale VHF, quelli della RAI 1, 2, 3 in standard definizione, di lì può entrare con le armoniche, quarta armonica può entrare, come è capitato a uno che l'altro giorno stavamo parlando di quello, disturbava le reti RAI in VHF, il MUX RAI in VHF, il primo, secondo e terzo, perché gli altri sono tutti VHF, e lui disturbava perché la quarta armonica dei 27 va a cadere esattamente sulla frequenza di trasmissione VHF della RAI. Ah, Miro, beh, adesso prima di far girare ti volevo chiedere una cosa a questo proposito, ma per caso RAI 1 non HD, cioè RAI 1 qualità standard, RAI 1, 2 e 3 hanno lo stesso MUX, domanda? RAI 1, RAI 2 e 3 hanno lo stesso MUX in VHF, lavorano su VHF, mentre l'HD infatti verrà soppiantata la RAI, ormai ce l'hanno già quelle frequenze che ce l'hanno da sempre, perché più i canali RAI erano VHF e sono in polarizzazione diversa da quelle VHF, e ci hanno fatto uno all'orizzontale e l'altro è verticale, almeno da Monte Oro, sono polarizzati diversamente, però nel futuro prossimamente quei canali scompariranno, quelli 1, 2, 3 in VHF, li hanno tenuti perché ce l'hanno da sempre. Io, non so perché te l'ho chiesto, perché mamma ha notato che di punto in bianco RAI 1, RAI 2 e RAI 3 non HD, quindi quelli che hai detto tu, stanno saltando in continuazione, appare scompare il quadro. E gli ho detto, ma probabile che siano dello stesso MUX, e mi ha dato la conferma. Invece se metti RAI 1, RAI 2 e RAI 3 in HD sono perfetti. O hanno abbassato la potenza, qualcosa devono aver fatto, perché l'antenna era nuova, è messa a settembre, l'antenna TV. No, vabbè, le potenze sono sempre quelle lì, non cambia niente. Il discorso è che adesso con la frequenza lì è una frequenza un pochettino più bassa rispetto alle U, loro trasportano sulle V, teoricamente il segnale dovrebbe essere più forte, l'hanno fatto per avere, però è un po' più larga come emissione, per cui occupano troppa banda, alla fine hanno detto lasciano perdere e non conviene, però a livello di a parità di segnale, un segnale VHF viaggia più potente e teoricamente più potente, questo ce l'hanno da sempre, da quando esiste la RAI sempre sono state VHF, e poi c'era un periodo, non so se vi ricordate, una televisione Teleobiettivo Sardegna, non so se ve la ricordate, quella lì trasmetteva in VHF, ci voleva un'antenna molto, un enorme canale F, mi sembra c'era una cosa. Ah, ma chi te l'obiettivo Sardegna che va, avevi bisogno di quelle direttive enormi, era VHF bassa, era, me lo ricordo. Quanto tempo, mamma mia. Giovanni, riprendi. Aspetta, c'è Riccardino, non so se lo stiamo annoiando, Riccardo ci sei. Interessante. Comunque quello che mi ha dato la formula, il nominativo qual è? Quello che tra l'altro si chiama Pompugno, Antonello Pompugno, o qualcuno lo chiama anche Alessio, però il suo nome di battesimo, sempre che sia battezzato, mi immagino di sì, è Antonello. Aspetta però un attimino, volevo rilanciare a Riccardino, sia che l'abbiamo annoiata. Avanti, sì, Natalino Alfa 1 da sempre, Natalino c'è una vita in frequenza, noi non eravamo neanche nati, vero Vasco? No, infatti, Natalino credo che abbia 10 anni, qualcosa di in più di me, sì, io mi ricordo appena entrato lo sentivo Natalino, quando era giovane, adesso è un po' meno giovane. Ciao Natalino, se c'è l'ascolto, dai. Natalino è la compagna di scuola di Elisabetta, la regina. Di Falcone. Questa non l'ho capito. Di Falcone. Sì, perché Falcone c'ha l'età di Natalino, tale uguale. La regina Elisabetta da quanti anni c'ha? 90 anni ha fatto, mi sembra, così. Mi sembra che la regina Elisabetta, cazzo, vive più del figlio, cazzo. Mi sa che il figlio, cazzo, muore. Lo dico io, la regina Elisabetta cazzo da tutta la cosa alle porte, lo dico io. Infatti c'è Carlo, si ha preso il coronavirus insieme alla pischella che c'ha con la bruttona, quella di Camilla, e infatti c'è cacchio, neanche questa volta ci riesco ad arrivare a fare il re, dura ancora di più la regina. Sta bestemmiando, dice, ma quando è che crepa mia madre, che hai capito, per essere re, e invece si attacca a pupa, si attacca, lo dico io. Tu è sempre uguale quella persona, non so se ci abbiamo un su, cioè, che lo mettono apposta per sostituirla, ogni anno dicono fa male, invece la fanno vedere ed è sempre in forma quella donna. Ok, vediamo un pochettino Giovanni Bracco cosa ci racconta. E che ti racconto? Ti racconto che mi sta venendo il sonno e che domani mattina devo andare in campagna, devo svegliare alle 6 minimo, io solitamente in campagna parto presto, anche se sono in regola, no? A quelle ore non trovi nessuno che ti rompe, magari ti fermano una coglionata e ti mettono la multa per un'altra, no? Quindi domani mi alzo presto, non ho nulla da temere, intendiamoci, ma per evitare perdite di tempo più che altro, va, è sempre meglio partire presto, almeno finora, io anche quando il coronavirus era, diciamo, all'apice, andavo a dare a mangiare ai cani e sempre comunque mattino presto, eppure c'erano dei carabinieri, hanno messo multe a gente che le multe non gliele doveva mettere, gente che andava in campagna ad accudire il bestiame, quindi puoi immaginare, se puoi evitarle è sempre meglio. Dai, ma adesso già puoi andare anche nel secondo. A proposito, se ti ricordi quella storia di Danilo che ha chiesto di quello strumento. Scusa, domani a Toralba non ti salvo perché sono con un operaio, quindi non è meglio di no, se non ci salga, ma direttamente in campagna, comunque appena vado a Torralba già ti avviso, dai. Ok, dai, eventualmente. Vai Riccardo. Vabbè, allora se non è troppo annoiata la situazione, ascolta dove ti dica, dai, qualche argomento interessante ogni tanto si ha, non è solo parlare di mangiare, di bere e di altre cose, ogni tanto è bene parlare di argomenti che abbiano delle cose, informazioni precise, però no, troppe volte si sentono informazioni sbagliate, raccontate per sentito dire. Ieri mi hanno letto un'informazione e poi alla fine i fatti erano totalmente diversi di quella persona che è morta, che hanno trovato morta. Morta a Balassi. ieri l'ho sopportato, infatti che questo probabilmente è morto d'infarto e stava prendendo il sole, perché hanno trovato un nudo, c'è caduto in mare, hanno spinto, si stava suicidando, di tutto hanno detto, era picchiato, c'aveva segni di lesioni di coso, invece niente, questo è caduto, era addormentato, probabilmente si è alzato, ha avuto un infarto e stava prendendo il sole, per quello è stato travagliato e c'aveva a casa. Quanti anni c'aveva? Nel giornale hanno detto 41, però ho sentito ne aveva qualcuno in più, forse 50. Addirittura, giovanotto quasi, paragono a me da. E la cosa brutta è che è morto anche un ragazzo oggi, quella è la cosa più brutta. Ah già, la maglietta. È terribile. Vabbè ragazzi, io faccio correre, sì, vi ringrazio. Ciao Componio, Roberto, Riccardino, poi mi sono dimenticato l'altro. Marco. Marco, cioè, ok Marco, buonanotte, a risentirci. Ciao Bracco, ci sentiamo alle prossime. Stavi bene con tutto, comunque metti. Buonanotte. Avanti Marco. Ciao Bracco, Giovanni, dai, buonanotte, buon tutto e a risentirci, ok? Robè, mi ero sentato un attimo. Ciao Giovanni, ben sentito, alla prossima, dai. Vai Erika. E tu a quella ti addormenti la notte normalmente, Erika? Ma anche quando vai a scuola? Ah cavolo, mi ha tolto, dai, vabbè, sei giovane, cioè bella, atleticamente pronto allora, sì. Ok, e Marco, ieri notte quindi non l'avete fatto tardi? No? E ora siete andati a fare la gente? Ma può parlare per io, Felice? Bello, dai. Sei coraggioso, dai, è una cosa... Quanto ti rimane in aria normalmente? Quanto riesci a rimanere? Addirittura, cavolo. Due ore, e poi quando vuoi scendere, cos'è? Pieghi, ti inclini tu, cosa fai per abbassare? Addirittura 360. Ma voluto o per difetto? Ah, infatti stavo dicendo che 360 non è uno scherzo. Quanto è grande il parapendio vostro di dimensione? Quello del tuo babbo e il tuo sono uguali come dimensione o il tuo è più piccolo perché sei più leggero? Ho capito, no, sono cose per chi piace, diciamo, uno sport, diciamo, divertente perché vedi le cose dall'alto. Quanto sali? Molto sali. Cavolo, così tanto, io pensavo un centinaio di metri, quindi anche 400 metri riesce a salire. Ma gli occhiali te li metti? Complimenti, hai sentito Antonello e Marco cosa fa di casa? Non ti stavo seguendo. Oh, scusate, se mi avete chiamato, sto leggendo dei messaggi vocali, quindi sto cercando di usare le due orecchie, ma non, il mixer non funziona. Non c'ha le orecchie serie, no, stava raccontando a che altezza vola col parapendio, anche 400 metri, Riccardo, cavolo, non è una cosa da tu. Mamma mia, per me che ho acrofobia è perfetto, mi potrei morire di infarto, lo sai. Vabbè, lui è facilitato che da ragazzino lo fa, per cui da adulto, quando sarà grande, si butterà dai coso, dai grattacieli col parapendio. Mamma mia, non mi ci far pensare, guarda, che poi non è vertigini, è proprio paura delle altezze, acrofobia vera e propria, per carità. Infatti per me sono esseri superiori questi che si lanciano anche col paracadute, col parapendio. Come fanno? Allora, io ho un amico che lui paracadutista, non diciamo l'ha fatto come militare, è grande questo, ma adesso ci avrà 74-75 anni. Questo ogni settimana va a buttarci col paracadute, tutte le settimane, ma che vabbè, non ci sia brutto te, tutte le settimane il coso suo, parte da Genova, va a Bologna, che c'è una scuola di cose di paracadutismo, e si butta sempre di lì, tutte le settimane. Vabbè, anche se sono 50 non è che cambi niente, sei un ben alto, sei sempre, se cadi ti, vabbè, non si cade, è rarissimo, però sono quote molto molto interessanti, diciamo, ci vuole molto coraggio per fare una cosa del genere, io non lo so, ma non vedi che fai anche paracadutismo? Vabbè, piano piano si fanno queste cose, dai. Paracadutismo è un pochettino più delicato, ci vuole una scuola, ci vuole un istruttore, eccetera, eccetera. Diventare paracadutista non è uno scherzo, dai. Se lo dico perché c'ho un amico che si è cagato sotto, l'ha fatta lui la scuola di paracadutismo, ha detto mai più in vita mia. Quando si è buttato con l'istruttore si è cagato sotto, con la telecamera le strilla si sentivano da Parigi. Ma anche con l'elastico ti sei buttato? Con l'elastico, quelli che si buttano da 200 metri, dai punti altissimi, con l'elastico legato. Mari l'ho visto pure qualche volta a Platamona, lì c'è il campo di volo, c'ho degli amici, il mio professore di scuola è stato quello che l'ha fatto quel campo, e poi c'ho tantissimi amici che lo fanno di lì il percorso, sono iscritti a quel club che c'è vicino alla torretta di Platamona. Ok, vai a fare. Dimmi tutto, dimmi. Comunque, da quando sono in questo cazzo di casino di... sono cambiato, quel ripetitore si vede poi un accidente qui da palazzo. Anzi, no, tutti e tre, non sono vivo, tutti e tre. Giovanna non riesce a telefonare, non fa la videochiamata, sente l'asilo, quindi figurati tu. Qui ci vuole una connessione, non è mai successo niente da quando abito qui, a un certo punto. Poi non sai anche tu la frequenza 2160, non 69, va bene, da 60 a 69 tutto roba di telefonia, perché si era venduta l'anno scorso la frequenza. Tutto lì. Adesso quando cambieranno il metodo di ricezione, dalla TV, allora spariranno tutti i problemi, il discorso è quello. Perché l'hanno fatto apposta, quindi tutto già fatto è apposta. E vabbè, adesso con il nuovo sistema diciamo ci avranno ancora più canali, e sono tutti sistemi in evoluzione, non è che peggiorano le cose, migliorano, occuperanno meno banda, eccetera eccetera, ma secondo me molti problemi voi ce li avete per quelle antenne, mica quelle antenne, per quelle linee ad alta tensione. No, mai avuto problemi con quelle, sono delle barche, basta qua RAM e boh, però è questione di salti di, cioè che non vedo la TV. Hai capito? È un discorso diverso. Vedi a tratti, a volte lo vedi manco l'immagine, eccetera, eccetera, hai capito? È una cosa, cioè, la mia cosa che mi ha pensato è a me, siccome io adesso ho le balle piene, e quindi a un certo punto appena è pronto a fare la denuncia, la firmo anch'io, questo cazzo di ripetitore, a quel cavolo di hotel, li faccio buttare tutti e due giù, a me non me ne frega niente. Quindi a un certo punto basta, perché basta, gli dico, io ho le balle piene di essere incolpato per cose che non ho fatto. Quindi a un certo punto quei ripetitori vanno giù, basta. A me non mi frega niente se lui si piglia 10.000 euro al mese, 20.000 euro al mese, a me non mi frega nulla. Se vuoi i ripetitori se li mette dietro, se li mette in terra, non sopra, perché non ci devo passare io per le cazzate sue. Hai capito? Siccome adesso chiuso lui se ne frega, capito? È come ti posso dire? Non c'ha dipendenti e grazie a Dio quei 10.000 euro al mese se li guadagna, sia da un ripetitore sia dall'altro, siccome uno è team e l'altro non so cosa diavolo sia. Quindi a un certo punto è diventato un togliaio qua, ci manca solo che ne mettano alto e siamo a posto qua. Quello lì è l'unico errore che posso criticare io a questi che danno le licenze, perché non lasciano un'unica postazione con un unico ripetitore che venga utilizzato da diversi gestori, come fanno la RAI, per dire, su un unico ripetitore ti trasmette 20 canali, Mediaset ti trasmette altri 20 canali, cioè questo fatto che tu devi mettere per ogni gestore un ripetitore uno a fianco all'altro nello stesso punto, a parte l'inquinamento visivo, diciamo, di tutte queste cose qua, paesaggistico, perché è brutto. Se tu vai sopra la scala di gioco, l'hai visto, vi so, quattro ripetitori, mega antenne inutili, sono quattro gestori diversi, quando ne mettevi una solo per tutti e servivi con un sistema di trasmissione, ormai esiste di tutto e di più per trasmettere da un unico punto diverse frequenze, questo l'avrei vietato. Purtroppo sono questioni politiche, questioni di soldi, perché quando metti un ripetitore devi pagare i canoni allo Stato, eccetera eccetera, se ne muoiono quattro ne paghi per quattro, se ne metti uno ne paghi per uno. Di lì c'è, da tanti anni c'è Telecom, dove Carlo Felice sta dicendo. Ehi, aspetta un attimo, su WhatsApp 2 minuti, penso che una persona se viene a lavorare qua, 2 minuti, e poi ti rispondo, va. Sì, allora, tanto tra poco chiudo io. Fai Riccardi, dai. Dimmi un attimino quanto te lo sta dando. Ma con la spedizione a parte o compreso di spedizione? Ma dove? Da dove lo state prendendo? Dal continente o qua in Sardegna? Vabbè, guarda se riesci a telefonare, ma da subito o da eBay? Tu chiama sempre per telefono, vedi un pochettino, non proprio tu fai parlare a tuo babbo, queste cose falle gestire a lui, così si rende conto se la persona è, almeno dalla voce, se è affidabile. Molte volte se ne accorgi dal tono della voce se è un furbacchione quando fai delle domande. L'MB più 9 è uguale all'MB più 5 in più c'ha l'ecco, è preciso, c'ha il controllo di toni, lo strumentino che ti dà la modulazione e l'ecco, l'effetto ecco, e l'MB più 5 con l'aggiunta dell'ecco e boh. L'MB più 4 invece è il microfono senza niente, c'ha solo il volume e basta, senza il controllo di toni. No, ma non te ne fai niente, lascia perdere, ecco, una cosa inutile. A parte che questi echi sono tutti rivebri, non sono neanche echi, che sono cagate, diciamo, detto in parole povere. Ci sono gli echo digitali, di certi quelli Colt, quei baracchini più evoluti, diciamo, oppure qualche microfono tipo l'MS-100 che ce l'ha, però sono sistemi antiquati quelli sui microfoni. Per prendere qualcosa di buono devi andare con una scheda specifica, esterna, eccetera, eccetera, ma lascia perdere, tu devi uscire bene, come ti ho sempre detto, è inutile fare tutte queste porcherie di mettere qua, devi uscire forte e chiaro, è inutile che poi esce troppo forte, sei distorto, oppure con l'eco per fare tutte queste ripetizioni inutili, non sei un camionista che deve camminare e farsi sentire, diciamo, più forte, con l'eco, per dire che se ci sono zone dove si abbassa il segnale, c'è la ripetizione e ti tiene il segnale ancora efficiente, però quando si trasmette da casa, in stazioni base, con postazioni fisse, è sempre bene non lasciare niente, mettere niente, pulito, microfono, regolato sempre la stessa posizione, l'apparato quello, e va più che bene. Quello è un bel apparato, quello è un valvolare, c'ha una bellissima modulazione, dal video sembra molto efficace, diciamo efficiente, sperando che sia un video recente, dai, è bello. E presente, non è che hanno grandissime qualità di coso, di ricezione, in trasmissione sicuramente va molto bene quell'apparato, non lo conosco fisicamente, l'ho solo visto così in figura, però è un bel apparato, ma anche quello che hai tu, questo che stai andando adesso, il Tiberi, quello lì è... è perfetto, c'è una radio spettacolare, vuole soltanto un pochettino amplificata per avere lo stesso intensità rispetto agli altri, perché sennò molte volte quando entri non ti ascoltano, nel senso sei un po' basso, quelli ti sentono basso e non riescono a sentirsi, però la radio è pulita, chiara, 100% bella. Sì, già ti ascolta, dai. Robè, ma tu per caso hai QRM elettrico qui in radio? Adesso tu, Riccardo, sento come delle ondate di fruscio tipo QRM elettrico. Ma quando parlo io? No, no, sotto Riccardo, di fondo. Come se dovesse piovere, mi. No, no, non piove, ho visto le previsioni, non piove. Quanto ascolti, Riccardo? Che intensità c'ha di segnale? Verica, vediamo. 7. E tu senti il fruscio, si porta presso il fruscio? Ehi, sotto Riccardo, sentivo come... come se dovesse venire brutto tempo, no? Ma... vabbè. Ehi, sì, la modulazione è anche stasera, hai detto, Riccardo, parla vicino al mic, perché certe volte, per esempio, lì si allontana, tipo così, no? E allora non lo sento bene di radio. Sì, se avessi un microfono, purché esca limpido, che aumenti un po' la modulazione, sarebbe ottimale, perché il segnale c'è. Il segnale c'è. No, già una bella radio chiara, lui la alza un pochettino come livello, il problema lo sai cos'è, Riccardo e Marco, già lo saprà anche Marco, se noi avessimo tutti lo stesso livello microfonico come quello di Riccardo non ce ne accorgeremo, perché alzeremo un po' il volume dell'apparato, il problema è quando entrano quelli che hanno le radio da combattimento, a quel punto devi abbassare loro, però se abbassi il volume non senti a Riccardo, non lo senti un po' basso, devi stare un po' attento, ma quelli che lo ascoltano basso non riescono a sentirlo bene. Ok, solo quello è il problema, siamo tutti fissati un po' con la radio da combattimento, per cui è quello. Se no, se avessimo tutte le radio salottiere, come dico io, sarebbe la cosa più bella. Molte volte in FM, infatti dico, andiamo in FM che almeno è più tranquilla, la modulazione, eccetera. Sì, un discorso che avevo fatto anche l'altro giorno, non so con chi ero. Quando Natalino aveva omologato con quella capsula primaria, io certe serate devo stare alza e bassa, cioè alzare il Natalino e abbassare per loro. Otto, se avessimo tutti lo stesso livello di modulazione, sarebbe più rilassato anche per la notte. Per esempio, l'altra notte c'era Fabio e Giovanna, no, Giovanna la sentivo appena di radio, Fabio c'era questa modulazione forte, poi con questo eco che ti prendeva la testa, e devo stare, conta che era tardi, devo stare alza e bassa, anche perché io tendo a avere, tendo a ottenere un volume di ricezione del baracchino basso, anche per non disturbare mamma che guarda la TV nell'altra stanza, capito? Ecco perché certe volte vi chiedo di ripetere, perché ho il volume al minimo, c'è un volume bassino comunque di ricezione. Ok, dai, un attimino, messaggino, oh, i nostri messaggini. Luigi Vulcano sta dicendo. Un ragazzo, mi ha sentito, io conosco Luigi Vulcano, che c'è tantissimi anni qua a Malachino, anche se sono di sfuggita lo stesso tempo fa, ma sono da molto che non lo sento, quello c'ha una bella posizione, lo stesso in zona di Ottava, è una vita che c'ha il Baracchini, si fa sentire da tutte le parti, però Vulcanino mi ha sentito. Giovanna è sopra vicino Salerno nella strada di Usilo, vicino, cosa ti posso dire, i vigili urbani, più o meno dove lavora tuo padre, salendo su fai un chilometro, dai, forse anche meno, di lì in quella stessa lì, sotto l'appartamento dove abita Antonello Pompugno, è la sorella di Coso, di, almeno così mi hanno detto, io non la conosco, la sorella di Antonello, sono abbastanza in alto, un'ottima posizione, l'unico problema è che Antonello se alza l'antenna deve mettere i controventi e fischia un pochettino, perché Antonello a livello di posizione se la gioca con Claudio. Claudio al decimo piano è un palazzo di quasi 40 metri, le antenne sono a 40 metri da terra, dalla parte alta di via Milano a Puglia che ne ha di coso, di radiazione con l'antenna, non ha bisogno neanche di sollevare molto il palo perché è già in alto lui, è molto più in alto di tutti, ma di altezza più o meno se la giocano con Antonello. Grattacielo quello più alto, ce ne sono due a Carbonati, quello un po' più su è sempre un palazzo alto, c'è una decina di piani, poi lui c'ha le antenne fuori sopra il tetto nella mansarda. Marco è un impianto già da sempre, è uno dei primi radioamatori, almeno di quelli che conosco io, come impianti d'antenna, adesso c'è qualcuno meglio di lui, però all'epoca era il numero uno, se vedi l'impianto di Walter e ti spaventi, cosa c'ha quello di antenne, ma antenne di dimensioni ciclopiche, attrezzature a fantascienza, anche Marco, però a livello di antenne forse Marco e Walter un pochettino, anzi sicuramente un pochettino più grande ce l'ha l'antenne, anche Fabrizio si difende bene, c'ha delle bellissime antenne subito fatte da lui, la maggior parte il traliccio almeno l'ha fatto lui, poi montate molto in alto, magari la posizione sua dentro città rispetto ad altri che sono un po' fuori e riescono magari ad andare meglio, ma Fabrizio si fa sentire da tutte le parti. Vabbè, io le radio già ne ho tante, magari non so se ci arrivo, vabbè se le conto tutte forse a 20 ci arrivo anche di più, e di base ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ce ne sono qua davanti, di base alimentate a 2,20, più ci sono un po' di baracchini e altre cose. Thank you. Roberto, Lafayette, Petrus. Lafayette Petrus è una bella radio, è l'imitazione, cioè diciamo con un altro nome del Saturn Echo, se ne hanno fatto 3 o 4 versioni di quelli lì, li hanno fatti sia argento che nero, Saturn Echo è nero normalmente, e poi il Petrus l'hanno fatto sia argento che nero, ma sono delle belle radio, funzionano più che bene, qua ce ne hanno tanti in frequenza. Fanno adesso i nuovi, l'evoluzione diciamo dei baracchini veicolari Colt, sono delle belle bestie, però sono apparati super sofisticati di nuova generazione, potentissimi, con un sacco di effetti eco, doppio modulatore eccetera eccetera, fanno il Colt, il Cobra eccetera eccetera, però sono, non sono baracchini omologati quelli. Non c'è, le puoi tenere, ne puoi tenere quante ne vuoi, naturalmente teoricamente non si possono usare per trasmettere, però li puoi usare come ricevitori o come vetrina, da nessuno te lo vieta. Lo stavo dicendo anche per me, è tardi, dai, ciao Riccardino, ben sentito, grazie della compagnia, avanti Marco. Ehi, adesso ci saluto entrambi. Comunque stavo notando, Robè, che il cielo è bianco, sai quel bianco rosato, e me ne sono accorto adesso, forse è per quello che sento un po' di attività elettrica, magari qualcosa di passaggio, diciamo. Ok, ciao Riccardo, buonanotte, ciao Roberto, buonanotte. Antonello, Bracco c'è ancora l'ascolto, tutti quanti quelli d'ascolto, dai, sentiamo, buonanotte a tutti, ciao. Ciao a tutti, ciao Antonello anche, ciao Marco, ciao a tutti.